Semaforo, scatenate l'inferno, prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Giovinco viene affrontato adesso da Ufer, il cross dalla parte opposta, non arriva nessuno, Lorenzi, nel suo stadio, ha segnato Alessandro Florenzi, strameritato il pari dell'Italia, vai Florenzi, prima, cross per Pellè si copre, la conclusione, Pellè, designato come possibile marcatore, segna proprio lui, Graziano Pellè, 2-1 per l'Italia. Chiarissimo sul labiale, siamo una squadra di fenomeni, l'ha ripetuto tre volte, fenomeni. Eccolo, vediamo un po' fenomeni. Fenomeni, dice Antonio Conte, fenomeni rivolti ai suoi, e davvero ci voleva questa bella iniezione di entusiasmo per tutto il gruppo che si prepara ad andare in Francia. Generazione di fenomeni, siamo noi. Io non so se siamo davvero una generazione di fenomeni, però all'Europeo ci andiamo da imbattuti, ci andiamo bene, da primi del girone, non da teste di serie, anche se Antonio Conte non se ne capacita. E poi ve lo dico, vi svelo un segreto, perché sul ranking UEFA per nazionali sono state dette tantissime inesattezze in questi giorni. Intanto cambiano anche i punti di vista. Una settimana fa, o meglio un mese fa, dopo le vittorie stentate contro Malta e Bulgaria, l'Italia era una nazionale lenta, brutta, senza qualità, con pochissime prospettive. Oggi invece io ho dato un'occhiata ai giornali, ad esempio prima pagina del Corriere dello Sport, siamo forti, tutto sport, che bello tifare per questa Italia. Oppure la Gazzetta, c'è il marchio di Conte, come cambiano le prospettive un mese dopo. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, ciao. Io non vedo l'ora di partire di Francia, di vedere che succederà. Insomma, dai, mi sembra tutto molto sano. Non so dirti neanch'io se siamo fenomeni o no, forse non siamo fenomeni dal punto di vista tecnico, però questa squadra, e questo è ancora più importante per Antonio Conte, delle cose le ha dimostrate dalla prima all'ultima partita, ha sofferto quando doveva soffrire. Ricorderete quell'Italia-Croazia al di là dei tremendi da Feruglia a San Siro, ma sembrava una partita in cui veniva sancita la superiorità dei croati rispetto a noi dal punto di vista tecnico, poi invece noi ci siamo qualificati per l'Europeo veramente con la sigaretta in bocca e loro invece hanno dovuto chiedere una mano alla nostra. Li abbiamo dovuti qualificare noi, esatto. Li abbiamo dovuti qualificare noi. Tu pensa, anche ieri sera ragionavo guardando la partita, quante volte abbiamo incrociato ragionamenti su pastette, scarso impegno. Beh, ieri eravamo noi dalla parte di quelli che dovevano fare i britannici, e l'abbiamo fatto, e questo insomma ci consente anche oggi di parlare con un certo orgoglio. Un giro di tweet di stampa internazionale nel quale si è sottolineato tutto questo, la professionalità nostra, gli spagnoli, insomma di tutti quelli che ieri hanno fatto, della Repubblica Ceca, tutti quelli che ieri hanno fatto pienamente il proprio dovere, pur già qualificati, è un bel segnale, eh? Un bel segnale. Allora, 800 24 00 24, secondo me è anche cominciata la corsa al carro del vincitore, il vincitore in questo caso, almeno per questo giro, quello di ottobre è Antonio Conte, poi vedremo a novembre e marzo con le amichevoli che ci devono portare verso l'Europeo. Notizia di servizio, dopo le 14:30 arriva Marco Belinazzo, parliamo insieme di tutto quello che sta succedendo. Vi dico anche che avremo aggiornamenti freschissimi sul Milan e sulla questione Mister B, trattativa o no. Oggi i tifosi del Milan che ha letto i giornali, qualche domanda se la sono fatta. Vi daremo qualche novità. 800 24 00 24, a me interessa sapere intanto se siamo o no una generazione di fenomeni, come dice Antonio Conte, che voto date al girone di qualificazione dell'Italia per questi europei, e poi mi interesserebbe anche sapere, allora, visto che Conte dice siamo una generazione di fenomeni, se ha ragione Tavecchio o no a dire che meno delle semifinali non si può fare all'europeo, Pier. Sì, anche se poi sappiamo bene che le competizioni brevi in particolar modo vivono anche episodi, e quindi può bastare veramente un episodio, anche un episodio arbitrale, positivo e negativo per cambiare il corso di una manifestazione come quella. Come prospettiva direi di sì, cioè io credo che l'ambizione dell'Italia mettendo in fila queste 24 squadre, se fossimo in un campionato, ecco, se fossero queste 24 squadre le protagoniste di una mega Premier League, il nostro obiettivo sarebbe andare Champions, diciamo che ci sono 4 posti per la Champions, di conquistare il 4° posto, ecco, perché secondo me ci sono squadre più forti di noi, però noi siamo in una fascia alta, siamo in una fascia secondo me tra il terzo e il sesto posto a livello europeo, e quindi uno la immagina così. Poi però sappiamo bene che la competizione di Coppa ha regole diverse e quindi magari è più facile uscire al primo turno, ma è anche più facile vincere. Oggi Pier, il Corriere dello Sport si è spinto oltre, ha fatto la griglia delle 20 attuali qualificate, Spagna e Germania in prima fila, Francia e Italia in seconda, davanti all'Inghilterra, al Belgio, al Portogallo. A proposito, Belgio ufficialmente per il ranking FIFA da oggi, per la prima volta nella sua storia, è la squadra più continua e forte di tutto il mondo. Vi faccio sentire due voci prima del traffico. Conte, a proposito del futuro e del suo contratto, perché anche ieri se n'è parlato, ovviamente. Io non penso che sia importante a 7 mesi, 8 mesi dall'europeo dire se uno resta o meno. Abbiamo il passato recente che insegna, no? Cesare Prandelli, che ha fatto un ottimo lavoro secondo me con l'Italia, aveva rinnovato un mese prima dei mondiali, poi è successo quello che è successo ed è saltato tutto, quindi secondo me sono tutte delle ipotesi. Io so che guarderanno molti risultati. Questo Conte sul futuro, oggi poi c'è chi scrive, guardate che il treno di Conte è già passato, Ancelotti un sogno, il nome giusto su cui puntare è Cannavaro, in tandem con Marcello Lippi. Non lo so, se volete dirmi cosa ne pensate, 800 24 00 24, traffico. Gufi, state a casa! Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Tutti convocati. No, io penso che se vuoi ambire a qualcosa di importante non devi fare classifiche, non devi fare graduatorie, perché se vuoi ambire a qualcosa di importante devi batterle le più forti, quindi non è un problema, ci faremo trovare pronti. Per me è impossibile che non ci sia la voglia e il cuore di venire a giocare con la nazionale. Questo è un bel gruppo, tutti alla fine cerchiamo di trasmettere un po' le emozioni di poter vestire la maglia azzurra, è un orgoglio per noi rappresentare una nazione intera. Poi è inutile ribadirlo, ma il mister ha un carattere particolare, quindi sì. Il carattere, la grinta non gli manca ed rispecchia un po' anche noi in campo e siamo contenti. Voci dalla vittoria di ieri con la Norvegia, che ci ha qualificato da imbattuti all'Europeo del 2016. Vi ho chiesto un voto al nostro girone, voto 7 perché il nostro girone era molto facile. Lori da Milano al 349-238-6666, poi c'è anche chi contesta e dice fenomeni, vedremo, per esprimere un giudizio serve una costanza di risultati e di rendimento e siamo solo alle qualificazioni, cosa che storicamente ci riesce bene, un po' meno bene negli ultimi tempi ci riescono invece le manifestazioni ufficiali. Saluto Aldo Serena, ciao Aldo. Ciao a tutti. A che punto siamo? Siamo una generazione di fenomeni, come ha detto ieri Conte, o forse è meglio spegnere i riflettori in questi mesi? Beh, oddio, una generazione di fenomeni non credo. Credo che il progetto Conte oramai sia ben delineato, l'identità di questa squadra il CT gliel'ha data con i suoi concetti, non sempre è stato spettacolare, però è una squadra che ha dei contenuti tattici ben definiti, con il 3-5-2 oppure con il 4-2-4, che è quel modulo che aveva portato Conte alla ribalta anche con il Bari, quindi di qualche anno fa. Grandissimi campioni forse non ce ne sono, alcuni stanno finendo la loro parabola come Pirlo, altri stanno crescendo e dico insigne su tutti, anche se questo giro della nazionale non c'è stato, però è una squadra che può dare del filo da torcere perché è una squadra che è compatta, una squadra che ha dei valori. È una squadra a cui manca Pierre drammaticamente un attaccante di livello internazionale. Ieri bella partita, però sono serviti 16 tiri per fare un gol, due gol alla Norvegia negli ultimi 10-12 minuti. Sì, anche se poi... Cioè, problemi che in Francia non possiamo trascinarci perché il livello sarà più alto. Sì, però ecco, io ribadisco quello che ripeto spesso, cioè che comunque un conto è una competizione breve, un conto è una competizione lunga. In assoluto quello che tu dici è vero, cioè noi siamo... Secondo me oggi fra il terzo e il sesto, settimo posto a livello europeo come valore, al di là dei ranking, delle statistiche, eccetera. Però da un punto di vista concettuale siamo in quella fascia lì, abbiamo una grande compattezza di squadra, un ottimo manico e ci manca qualcosa davanti, sicuramente. Questo è vero. Detto questo, poi la competizione breve, grandissimo rispetto per Todoski Laci che Aldo conosce e ricorda molto bene. Però insomma, non è che sia stato il più grande attaccante della storia del calcio italiano, eppure stava tenendo da solo l'attacco di Italia 90. Quindi questo per dirti che poi l'impresa, l'exploit lo può fare pure Pellè se arriva, che è un buonissimo attaccante, ma che chiaramente non è Higuain, però te lo può fare. Te lo può fare se arrivi in una condizione molto buona. A me quello che dà fiducia è la compattezza della squadra. Cioè io so che noi venderemo cara la pelle. Poi è ovvio che per riuscire a sparigliare certe partite e a fare il salto di qualità avremo bisogno di una ispirazione, di un pizzico di fortuna e di una grande condizione da parte di un reparto, quello degli attaccanti, che non è sicuramente a livello dell'Argentina o di altre realtà del calcio europeo. Sì, un reparto che vedremo anche come sarà composto. Intanto i 16 gol che abbiamo fatto in 10 partite sulle 20 squadre finora qualificate all'europeo, sai chi ha fatto peggio, Pierre? Solo Galles e Romania con 11, tutti gli altri hanno segnato di più. Ma è importante il bilancio fra i gol fatti e i gol subiti. Poi vi diremo anche che è colpa anche di questo dato se noi non siamo teste di serie, non di altre cose che sono state dette in questi giorni. Aldo dice Conte, il gruppo è questo, non basteranno campagne mediatiche, un paio di partite fatte bene per entrarci, riferimento indiretto ma credo abbastanza chiaro soprattutto a Balotelli, perché quando si parla di campagne mediatiche io ho l'impressione lui abbia in testa soprattutto Balotelli. Sì, anche a me sembra abbastanza diretto al rossonero questo messaggio. Spero non sia diretto a Berardi o a Insigne, che se n'è andato perché ha per il problema fisico. Io penso e spero che questi due giocatori possano darci quel cambio di passo in avanti. Non abbiamo un attaccante centrale di altissimo profilo, l'avete detto anche voi, perché Zaza si sta impantanando così nella panchina bianconera e l'unico riferimento per ora è per lei. Quagliarella mi sembra ancora insomma, non più nel verde degli anni, anche se all'occorrenza può ritornare buono, ma attraverso secondo me la qualità, la fantasia di Berardi e di Insigne, che sono due giocatori che si stanno affermando notevolmente nel campionato italiano, soprattutto Insigne con il suo Napoli. Ti è piaciuto il 4-2-4, il modulo, Pierre, con cui dobbiamo andare in Francia, o anche questo da rivedere contro avversari di spessore leggermente superiore a quelli con cui Conte l'ha messo in campo? È un ritorno di fiamma, no, per Conte. Ricordate che Conte quando arrivò alla Juve aveva la patente del 4-2-4 che cambiò perché si rese conto che Vidal doveva rimanere in campo, che Marchisio era insostituibile, che Pirlo ovviamente doveva giocare, quindi quella Juve provò il 4-2-4 soltanto della prima amichevole con i Boscaioli di Bardonecchia con Marchisio esterno, e poi dalla partita successiva cambiò modulo. E quindi insomma, comunque dico questo per dire che lui è un modulo che piace sicuramente, è un modulo che consente con gli interpreti giusti di attaccare molto e di farlo grande forza, è un modulo molto dispendioso, a me sembrano prove tecniche, sinceramente prove tecniche. Ma ci puoi giocare anche contro Spagna e Germania, cioè io allargo anche ad Aldo questa domanda, perché a me sembra difficile. Diciamo apertamente il 4-2-4, se aumenta il livello degli avversari diventa automaticamente 4-4-2, no? Cioè poi bisogna stare molto attenti secondo me a tutti questi numeri, perché veramente se no poi si danno i numeri, così come il 3-5-2 spesso è un 5-3-2 se gli esterni di centrocampo in realtà si abbassano tanto. Quindi insomma, io sono sereno perché credo che Conte ci darà l'equilibrio di cui abbiamo bisogno. Vabbè, secondo me il 4-2-4 deve contemplare i due attaccanti esterni che devono essere forti fisicamente, resistenti, capaci anche di fare qualità offensiva. Per ora l'Italia ne ha uno di sicuro ed è Florenzi, in questo avvio di campionato strepitoso, fantastico, perché che sia laterale basso o laterale alto è un giocatore che fa la differenza e quindi va sfruttato, e secondo me il 4-2-4 è una risorsa notevole. Candreva, ecco, forse su Candreva, che è bravissimo sotto il profilo della qualità, ma non sempre rientra con doveroso sacrificio, e il Sharawi forse fin troppo offensivo per un 4-2-4, quindi è da ricercare un altro attaccante, oppure una trasformazione di questi che porterebbe probabilmente anche ad avere l'equilibrio necessario per sostenere questo modulo. Sì, e poi se posso permettermi, ne andranno 23 in Francia, e quindi non ci sarà la possibilità di scegliere a seconda dell'avversario. Credo che le idee dovranno essere chiare, cioè se gli esterni saranno offensivi o difensivi. Mi fate sentire Conte sulla questione testa di serie. Noi abbiamo chiuso il girone con 24 punti, ripeto, diventa difficile spiegare perché non si è testa di serie dopo che dall'anno scorso, quest'anno tra amichevoli abbiamo fatto 13 partite, 8 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta nell'ultima amichevole di giugno col Portogallo. Peccato per quella, altrimenti parleremo di una squadra imbattuta, ecco. Questo Conte, allora, oggi è uscito il ranking, lo diciamo a tutti a casa, noi non siamo teste di serie perché il regolamento prevede che il paese che ospita una manifestazione, in questo caso la Francia, abbia la nazionale testa di serie, altrimenti noi saremmo sesti e saremmo teste di serie. La Croazia, di cui si è parlato in questi giorni, non c'è davanti ma c'è dietro, quello è un altro ranking, quello FIFA. E le amichevoli non c'entrano nulla, perché in questo ranking le amichevoli non vengono considerate. Quindi la prestazione di Conte è buona, però il regolamento ci impedisce di essere test di serie. Posto questo, la Federcalcio andrà a chiedere di cambiare quelle norme, Pier, come faceva una volta Gagliani sul ranking UEFA, quello per i club. Ha ragione la Federcalcio, perché secondo me questo tipo di ranking non tiene conto a dovere, a sufficienza, anche della storia, e non parlo della storia antica, non voglio parlare dell'europeo vinto nel 68, parlo del fatto per esempio che noi siamo stati finalisti all'europeo con la Spagna nell'ultima competizione Western Club importante che c'è stata 4 anni fa, e mi sembra che sia un po' troppo numerico, un po' troppo statistico, un po' troppo legato al presente e poco alla storia e alla tradizione delle nazionali, quindi io penso sono d'accordo e vabbè, comunque detto questo, ci auguriamo di trovare un girone discreto, dai, senza esagerare. Ci sono delle incognite, che possono essere la Polonia in terza fascia, l'Islanda in quarta fascia, ma anche se poi io credo che tutto dipenderà da come si arriverà a questo europeo. L'europeo storicamente era la competizione più equilibrata di tutte, quello a 16 squadre, dove veramente chiunque poteva battere chiunque altro. 24 forse qualche differenza in più ci sarà, però secondo me questo segno di equilibrio rimarrà. Sì, e poi vedremo anche che cosa rischiamo di pescare. Intanto fammi salutare Aldo Serena. Ciao Aldo. Ciao a tutti voi, buon pomeriggio. Grazie ciao, Aldo Tito. Serena, 800 24 00 24. I vostri voti stanno già arrivando via sms 349 238 6666, qualche 6 e mezzo, Pier, pochi 7 a questo girone di qualificazione della nazionale. Abbiamo però tempo di parlarne fino alle 15.30 e tra pochi istanti vediamo anche gli aggiornamenti sulle questioni giudiziarie e soprattutto sulle ricadute sulla trattativa del Milan. Torniamo subito. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Sono Francesco da Parma, Roberto da Reggio Emilia, c'è Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. C'è una dichiarazione di Mr. B su quello che è stato scritto oggi su molti giornali, ma in particolare sulla Gazzetta dello Sport, cioè che starebbe saltando la trattativa per l'acquisto del 48% del Milan. perché l'inchiesta su Infront, diritti TV, finanziamenti e club, che tocca anche uno, viene scritto, consulente di Mr. B, potrebbe insomma creare dei problemi. In realtà poi insomma l'allusione è anche un po' più diretta e pesante sulla provenienza dei soldi di Mr. B. Due minuti e vi leggiamo la dichiarazione. Francesco da Parma, che ci aspetta da qualche minuto. Francesco. Ah, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo, vi rubo solamente qualche secondo, io volevo solamente chiedere scusa a Conte, non perché l'abbia, non l'ho mica mai offeso, per l'amor di Dio. Io sono sportivo e tifoso milanista, De Sciglio col Milan gioca male, Romagnoli col Milan gioca male, Montolivo idem, vanno in nazionale con Conte, sembrano degli altri giocatori. Sì, quindi Romagnoli io, no, Romagnoli non c'era, Romagnoli no, in questo giro. Era. Montolivo ieri è stato il peggiore in campo, però ho capito il concetto. Comunque, guardi, io sono sempre stato contro Conte, io dico che la prima cosa perché rinasca un grande Milan è avere Conte. E gli chiedo scusa perché non sono sempre stato contro di lui come allenatore, per l'amor di Dio. Quindi vedendo giocare quei ragazzi lì in nazionale con la carica che gli stanno, Conte sta dimostrando di essere veramente un conduttore di alto livello. Quindi basta, finito, ti ringrazio. Non è un mistero che a Berlusconi Conte piaccia, esatto, ci ha provato almeno per due anni di fila. Dottor Berlusconi, ci ha provato come Pierre? Prendete Conte che vedrete che è il primo passo per far ritornare grande. Io credo che ci riproverà, però questa è una mia sensazione, Pier. Sì, beh, Conte è un'idea fissa, sappiamo bene che insomma, ha fatto un'altra scelta, è stato bloccato, il sogno di Conte era andare a allenare, non sto dicendo credo niente di privato, una grande squadra all'estero, c'era stato un sondaggio del Manchester United, insomma la sua dimensione è quella, poi è arrivata la chiamata della nazionale, è arrivata pochi giorni dopo addirittura il suo addio alla Juve, lui l'ha presa io credo un po' per senso del dovere, un po' per prestigio, un po' per come fanno certe donne con certi mariti o viceversa, no, io ti cambierò, lui voleva riuscire a prendersi in nazionale le stesse licenze, lo stesso tipo di lavoro, la stessa possibilità di allenare la squadra, non soltanto di selezionare i giocatori che c'è in un club, e devo dire che per ora i risultati sono buoni, ma come ripetiamo sempre è veramente troppo presto e mai come nella nazionale poi alla fine decidono pochi episodi all'interno di una competizione molto breve, sì. E ci divertiremo. Il bilancio andrà veramente tirato alla fine dell'Europeo, credo sarà anche tardi a quel punto, nel senso che probabilmente il destino di Conte sarà già compiuto, si saprà già dove andrà a finire. Roberto da Reggio Emilia, poi parliamo delle questioni di Goal Economy. Roberto. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, Roberto da Reggio Emilia. Niente, io volevo dire due piccole cose. Per fortuna ieri ho visto innanzitutto una squadra che corre, sarà stata una coincidenza perché c'erano fuori alcuni vecchietti. C'era fuori Pirlo, dai, non facciamo tanti giri di parole. Esatto. Questo finalmente... è un'ipotesi, è un'idea, è un sospetto che viene. Sì, no, io sono juventino, io Pirlo l'ho sempre adorato, però secondo me ha fatto il suo corso. E poi a proposito di vecchi, un'altra cosa. Io penso che la telecronaca della RAI con Trapattoni, ragazzi, sia una cosa insentibile, veramente non si può sentire. Beh. Io Trapattoni gli voglio molto bene, però penso che anche lui abbia fatto il suo corso e come telecronista magari il Pardo... Magari Pardo ha le sue opinioni su Trapattoni, però non lo so, poi il genere può piacere o non piacere, Pier, passerei oltre se sei d'accordo. Sì, grazie, ti ringrazio per la stima, ma... Ecco, la birra gliela daresti, chi lo sa, no, ma il Trap resta un mito comunque. A me Trap sì, resta un mito, certo, non ho dubbi. Parliamo un po' di Goal Economy, allora partiamo dal fondo, da quello che è successo pochi minuti fa, perché oggi nella dose quotidiana di notizie del fronte giudiziario, questioni in fronte diritti TV, finanziamenti ai club eccetera, spunta l'ipotesi che questa inchiesta possa far fallire l'acquisto del 48% del Milan da parte di Mr. B. Pochi minuti fa Mr. B detta questa dichiarazione: in relazione alle continue indiscrezioni e valutazioni totalmente arbitrarie e soprattutto prive di fondamento comparse in questi giorni sulla stampa, Preciso di non aver mai avuto occasione di conoscere il dottor Andrea Baroni, che è la persona, il fiscalista arrestata venerdì. Il dottor Baroni ovviamente non ha alcun ruolo nelle trattative in corso per l'acquisto del 48% del Milan, dice Mr. B. Trattative che proseguono secondo quanto concordato dalle parti. Ribadisco l'assoluta correttezza dei miei comportamenti e valuterò coi legali le azioni più opportune a mia tutela. Benignazzo. Beh, stamattina io ho avuto modo di sentire i consulenti di entrambe le parti, insomma, per verificare questa pista, che ci fosse un'inchiesta specifica sulla trattativa lo aveva escluso già il procuratore capo di Milano Bruti Liberati quando ci sono state le prime indiscrezioni. Chiaramente c'era questo collegamento, c'è una persona che lavora all'interno di una struttura che fa consulenza finanziaria lecita o borderline a seconda dei punti di vista, la quale, diciamo, lavorerebbe anche per Mr. B. Questo ovviamente ha alimentato le voci che già ci sono sul fatto che la stima del Milan è troppo alta e quindi ci sarebbe dietro un fenomeno di riciclaggio e ci sarebbe una sorta di voluntary disclosure, cioè, da parte di Berlusconi, di rientro di capitali dall'estero, questo, vestiti con questa trattativa, sì, questa è l'ipotesi, diciamocelo, che si fa. Chiaramente, perché altrimenti qua continuiamo, no, ci giriamo intorno. Appunto. Mr. B ha voluto in questo caso specifico negare qualsiasi rapporto con il fiscalista Baroni arrestato, che lavorava per la Tax and Finance di Lugano. Io stamattina appunto ho parlato con le parti che mi dicono che la questione, diciamo, è che si sta procedendo secondo la roadmap, magari un po' più lentamente di quello che ci si aspettava, ma che si sta cercando di fare le cose come vanno fatte e che non c'è alcun tipo di rapporto tra le inchieste e quanto si sta facendo per arrivare a una felice conclusione di questa trattativa. Si sta andando avanti, vedremo quanto tempo occorrerà. Ovviamente ci sono tanti passaggi tecnici, la cordata di Mr. B è molto variegata, non è solo Mr. B, se lui metterà una piccolissima parte rispetto a quanto metteranno i suoi soci e le banche coinvolte, e chiaramente non stiamo qui dicendo che si concluderà certamente al 100% positivamente, ma oltre, insomma, ci sono grandissime possibilità e soprattutto c'è la volontà ribadita ulteriormente sia da parte di Fininvest che da parte dei compratori di arrivare alla conclusione. Certo è che questo clima non è che faccia tanto piacere a chi deve venire a mettere, no, tanti soldi. Assolutamente. In Italia, diciamo che siamo nella fase in cui chi ha dato le garanzie deve fare il passo successivo e sbloccare quello che va sbloccato per chiudere questa vicenda. Poi se avete domande 800 24 00 24, noi siamo qui. Pier, tu invece ti sei fatto un'idea sulla vicenda Paletta, che incuriosisce? No, su Paletta veramente pendo dalle labbra di Berinazzo. Mi sembra però, leggendo i giornali, che ci sia un brutto clima, nel senso che mi sembra che ci sia proprio il tifare da una parte o dall'altra. Questa cosa, se non ha senso, non ha veramente senso per il sistema del calcio italiano. Io l'unica vicenda che un po' conosco, come la conosco tanti altri colleghi, che comunque le cifre si sanno, è stata il famoso accordo sottoscritto da 21 società su 22 con la sola astensione della Fiorentina, che ha portato a quella spartizione dei diritti televisivi. Io credo sia molto molto difficile, in una trattativa così complessa dove anche l'antitrust si era espressa a favore di un accordo tra le due televisioni, di andare a capire. Pensa alla quantità di telefonate che ci sarà stata da una parte e dall'altra fra dirigenti delle società, dirigenti delle televisioni in quelle ore. Cioè, mi sembra veramente molto molto difficile quel tema lì. Sì, io credo, Pier, che di quello che viene detto in queste ore l'unica cosa che sia difficile sostenere è che Sky all'inizio era d'accordo, perché basta ritornare indietro di un annetto e mezzo per capire che questo non è successo. Poi alla fine si è arrivato a un compromesso. Però non è neanche vero quello che ho letto oggi sul titolo su Repubblica, che sono stati persi 150 milioni, perché l'offerta di Mediaset si sa benissimo che era un'offerta vincolata, quindi i soldi di Mediaset non sarebbero mai arrivati. Sarebbe bello vendere casa mia per cifra X, peccato che il compratore quei soldi non te li dà. È stato fatto un compromesso che rispetto a 3 anni prima vede Sky confermare lo stesso prodotto spendendo di meno e Mediaset perdere delle squadre spendendo di più. Questo è quello che ci hanno raccontato, che Berinazzo sì, diciamo che rispetto a questa tua ricostruzione farei questa piccola correzione, ma la sostanza non cambia, cioè che Sky ha mantenuto quello che manteneva pagando poco di più. Sky ha pagato circa 100 milioni in più quello che aveva, scusami, Mediaset Premium, 100 milioni in più il pacchetto, diciamo, per il digitale terrestre, con 8 squadre anziché 12. Quelle 8 squadre hanno dentro, insomma, però quelle più interessanti dal punto di vista dell'audience. Ed è questa. Anche le 12 che c'erano fino all'anno scorso. Certo, però. Però diciamo che il compromesso, insomma, alla fine ha accontentato tutti, perché peraltro le squadre dovevano chiudere quell'accordo, da lì la quasi unanimità, per fare mercato, perché come sappiamo vendono diritti TV alle banche, anche quelli degli anni successivi. Perché lo sentiamo dopo il traffico, perché ecco. Ieri c'è qualcuno che con sintesi mirabile ha spiegato forse so chi. Perché non si può fare a meno di quei soldi lì e perché questa inchiesta preoccupa profondamente il mondo del calcio italiano. Traffico. Torniamo subito. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, io di questa cosa posso dire pochissimo perché sono nel calcio da un anno. Posso solo dire che se succede qualcosa sui diritti, per qualsivoglia motivo, che ci saranno le autorità competenti, credo che il calcio si fermerà, perché molte squadre di calcio vivono di diritti televisivi. Chiaro, no? Se possiamo emendare Ferrero, non molte squadre. Ragazzi, praticamente tutte le squadre vivono di diritti TV. Ma è ovvio, ma quest'estate già abbiamo visto i primi segni della nuova ricchezza del calcio italiano con una campagna acquisti. Poi chiaramente i soldi li puoi prendere bene, li puoi prendere male, ci mancherebbe altro. Però oggi noi abbiamo, dal punto di vista degli introiti televisivi, siamo all'avanguardia, siamo il secondo paese al mondo e non abbiamo, ahi noi, il secondo campionato al mondo. Dove dobbiamo crescere, dove per esempio la Juve, l'Udinese, sono portati avanti, sicuramente sulla questione degli stadi, sulla questione del merchandising, ma dal punto di vista dei diritti televisivi, mi sembra una delle cose che, vedendola da fuori, ovviamente, senza entrare nel merito delle indagini, che viva Dio, dovranno essere fatte, aspettiamo, ovviamente la magistratura va rispettata nel suo lavoro, ma vedendo dal punto di vista complessivo, economico, insomma, mi sembra veramente che una delle cose che funziona grazie a una cosa che non fa piacere a Sky e non fa piacere a Mediaset, ma che fa piacere alla Lega Calcio, cioè al fatto che ci sono due soggetti. Questi due soggetti, da un lato, si fanno la guerra per conquistare le posizioni e quindi spendono di più, e fra tre anni, quando bisognerà rifare il contratto, hai già un mercato non monopolistico al di là della Melampi, cioè hai. Se io devo vendere una roba, preferisco che ci siano 50 persone che si scannano per comprare questa roba. Piuttosto che ci sia solo uno che può fare il prezzo. No, io no? Assolutamente. Io su questo voglio dire una cosa. Cioè, che ci sia un'anomalia nella Serie A rispetto a Premier e Bundesliga, un'anomalia che si chiama Infront. Questo è evidente, perché Premier e Bundesliga vendono da soli i propri diritti TV. Però Infront non è... E so che dirò magari una cosa controcorrente, ma Infront non è la causa dei problemi del calcio italiano, semmai è l'effetto. Cioè dipende dal fatto che il calcio italiano non ha sviluppato quelle capacità manageriali per vendere da solo i diritti TV in Italia e all'estero, per gestire in moltissime squadre la parte commerciale, e si è affidata, preferisce affidarlo a Infront, uno perché dal 2010 con l'ultimo contratto gli ha portato un incremento da 700 a 1200 milioni, quindi di 500 milioni, e molte squadre non vogliono gestire la parte commerciale, preferiscono accontentarsi del minimo garantito da Infront, perché magari Infront quel lavoro lo sa fare e porta a casa dei soldi, e piuttosto che strutturarsi in maniera tale, fare investimenti per sfruttare la propria area commerciale. Posso candidarti alla presidenza della Lega? Sì, ma ne hanno candidati tanti, no, però mi dicono che non vogliono un manager che sappia di cosa parla alla Lega Calcio. No, i numeri sono questi, sono d'accordissimo con te. In un mondo normale, in un sistema sano, non hai bisogno di un'agenzia immobiliare per venderti casa. Metti un cartello, arrivano le persone e ti comprano casa. Se però tu non sei in grado, ed è la realtà del calcio italiano, per pigrizia o perché non sei proprio capace di vendere bene, e allora hai bisogno di qualcun altro. Poi secondo me c'è un tema molto, molto interessante, ma che dovrebbe eventualmente riguardare il legislatore, che è è giusto che chi fa l'advisor e vende diritti televisivi possa poi anche commercializzare i cartelloni pubblicitari, i biglietti VIP, sì, abbia rapporti con 12 club di Serie A, questa è Infront oggi. Che fa Infront. Come Infront la fa, non lo so se la fa bene, se la fa male, però la fa nella stragrande maggioranza dei casi, evidentemente è perché la può fare. Allora, si può decidere che Infront questa cosa non la può fare. Questo è un discorso che insomma ci può stare, no? Che c'è un conflitto di interessi tra uno che si vende i diritti televisivi e che poi va dalle singole società a procurargli delle opportunità di business. Però lo deve decidere il Parlamento. Allora, il Parlamento deve decidere una cosa di questo tipo e a quel punto, dal giorno dopo... E a quel punto si applica. Pier, fammi dire una cosa ai tanti che stanno scrivendo e parlano di conflitto di interessi, Pardo lavora media, qui ognuno esprime le proprie opinioni. Assolutamente. Credo in maniera assolutamente onesta. Ci possono essere opinioni differenti, ognuno motiva le sue e voi vi fate sintesi e vi fate un'idea del tema e ve la fate anche leggendo i 1000 giornali che vengono pubblicati tutte le mattine. Però mi dovete far dire due robe su Paletta, sulla vicenda Paletta. Oggi Galliani dice: noi siamo stati gli unici a dare dei soldi al Parma a gennaio. Com'è che veniamo indagati? Tantissime squadre che hanno, come dire, preso degli svincolati dal Parma, anche quelle potrebbero aver prodotto un danno patrimoniale. C'è l'ipotesi per cui si accusa Galliani e mi scoccia essere qui a difendere, pare che si difendo Infront, Galliani o lungi da me. Io cerco semplicemente, come dire, di guardare ai numeri e di guardare agli aspetti giuridici. Ora qui si parla di bancarotta, concorso in bancarotta fraudolenta, perché questa operazione, l'operazione Paletta, avrebbe appunto depauperato il patrimonio, la rosa del Parma. Cioè sarebbe stato preso un giocatore a 2,5 milioni che ne valeva molti di più. Il problema è che non c'è nessuna norma che stabilisce quanto vale un giocatore, tant'è vero che abbiamo visto il fenomeno delle plusvalenze che ha mandato quasi gambe all'aria mezza Serie A negli anni passati. Ma non si può, diciamo, come dire, sostituire un giudice e stabilire che Valletta dovesse essere venduto a 10 milioni piuttosto che a 2,5 milioni. Altra cosa è se nell'indagine che sta proseguendo magari c'è, non so, un'intercettazione piuttosto che un atto in cui si dimostra che il Parma avrebbe potuto vendere, aveva un'offerta vincolante di un club per Paletta a 6 milioni e l'ha preferito dare al Milan per 2,5 milioni. In questo caso, diciamo, ci potrebbero stare, se ci fosse la consapevolezza del dolo, esattamente, ci sarebbe eventualmente questo. Dobbiamo capire se c'è o meno, altrimenti la cosa pensa, non regge. Pensa che i tifosi del Milan dicono che 2,5 milioni per Paletta, appunto, sono stati appunto, anche troppi. Io chiedo scusa per il momento a Gianluca da Bari e Raffaele dalla provincia di Varese, da cui ripartiremo sicuramente dopo il giro delle 15. Magari e magari Gianluca Paparesta da Bari. Questa è un'altra bella vicenda, questa stessa roba degli illeciti finanziamenti. Guarda, poi, se poi ti magari vuoi fermare dopo le 15 andiamo avanti a parlarne. Ripartiamo da Gianluca da Bari, da Raffaele dalla provincia di Varese. Pier, ti saluto. Ciao ragazzi. A domani dopo il giro delle 14, ci sentiamo subito. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ciao, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Brian Wilson, dai Beach Boys alle sue grandi opere passando attraverso la follia. Carlos Monzoni, il pugile bello e maledetto destinato a una fine terribile. Amelia Earhart, la donna che inseguì i suoi sogni fino all'ultimo volo. Jean-Claude Romain, l'uomo che per difendere le sue bugie sterminò la sua famiglia. E la meravigliosa storia di Peter Norman, l'atleta bianco che si schierò con i neri per cambiare la storia. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Ok Google, imposta sveglia, Il Falco e il Gabbiano, 15:30. Il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. State ascoltando un programma offerto da... Index protegge i risani edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si ricomincia. Tutti convocati. Ultime notizie: Balotelli si è allenato a parte, ha già lasciato Milanello in forte dubbio per la partita di sabato sera contro il Torino. Altra notizia: Barzagli, che un'oretta fa ha annunciato il ritiro dalla nazionale alla fine dell'europeo, ha detto giusto lasciare il posto ai giovani. 800 24 00 24, stanno arrivando i vostri voti alla nazionale di Conte che non va oltre il 7, arrivano tanti sms al 349 238 6666. Poi arrivano altre domande sulle questioni relative alla pagina giudiziaria calcistica di questi giorni, andremo avanti a parlarne con il professor Belinazzo. Intanto però Raffaele dalla provincia di Varese. Raffaele, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a te. Senta, io volevo fare un rimprovero a voi giornalisti. Sì. Anche perché se ieri sera a 30 secondi finita dopo la partita, il suo collega della Rai ha intervistato il giocatore, domandandogli cosa ne dice se alla fine del mandato Conti cambierà la cara. Cioè, voglio dire, questo qui poverino ha appena finito di giocare, in 30 secondi che ha finito già. Tu dici cosa può dire? Non si può andargli a domandare che cosa ne pensa se giocherà ancora. Però vedi Raffaele, il tema secondo me è che ci vorrà chiarezza in fretta. Non è vero che si può arrivare un mese prima dell'europeo per decidere cosa fare dopo l'europeo, perché l'esperienza dice che è la situazione peggiore in assoluto per i CT, cioè arrivare in mezzo alle discussioni magari logorati anche una trattativa che a me pare abbastanza delineata, cioè Tavecchio farebbe carte false per avere il rinnovo con Conte, e Conte sinceramente e anche credo in maniera legittima pensa a uno sviluppo differente della sua carriera, che se lo dicano in fretta e ce lo dicano in fretta. Conte, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Poi se non dovessero arrivare offerte, si deve anche incastrare, no, l'occasione con la sua scelta e con la sua libertà di manovra. È giusto che se la prenda, però è anche giusto, insomma, che ci siano programmi chiari sul dopo, anche prima dell'europeo. Il signor Gianluca da Bari è caduto, non era Paparesta, così chiudiamo i discorsi che riguardano Infronte, diritti TV e finanziamenti vari. Ragionavamo prima, insomma, sul fatto che l'altro filone, oltre a quello della turbativa d'asta, è quello dei finanziamenti occulti, per il momento a due squadre, al Bari e al Genoa. Genoa e Bari. Bisogna capire ovviamente se ci sono fenomeni di riciclaggio di soldi frutto di evasione o di altri reati arrivati dall'estero. Poi basta dire estero su estero, non è che è peccato un movimento estero su estero, cioè di per sé, voglio dire, bisogna capire che soldi si spostano e se viene dichiarato al fisco italiano. Ora, stando a quello che ci dicono le parti preziose Paparesta, tutto è venuto alla luce del sole. Se tutto è venuto alla luce del sole, e visto che siamo in Italia dobbiamo riconoscere, no, un principio di assoluta non colpevolezza, allora cosa possiamo intuire, cosa possiamo dire velocemente su questo aspetto dell'inchiesta della Procura di Milano? Ci sono stati finanziamenti da parte, probabilmente, dice la Procura, di soggetti vicino a Infront, come MP Silva, che è l'intermediario che vende i diritti all'estero del calcio italiano, che li conquista dopo un'asta, non è che gli vengono affidati, ricordiamolo sempre. E a quel punto che succede? Che ci sono, diciamo, queste due squadre hanno la possibilità di iscriversi al campionato e quindi ci sarebbe stato un ostacolo alla vigilanza, in particolare la Covisoc, perché questi soldi avrebbero consentito di pagare delle penalizzazioni. Quindi l'ostacolo alla vigilanza. Alla fine la ricaduta sportiva. Perfetto. Io faccio una domanda, come quello lì scarsamente si dà una risposta, quello della televisione. Allora, se il finanziamento fosse arrivato da un terzo, da una banca o da un altro soggetto, staremmo qui a discuterne? Credo di no. Quindi il problema semmai è l'opportunità di quel finanziamento, che non doveva essere fatto, se è stato fatto da Infront o da MP Silva. La rilevanza penale ripeto, al netto delle questioni di riciclaggio di cui si parla, mi sembra molto scarsa, perché è tutta da dimostrare. Siccome vogliamo essere chiari e trasparenti, abbiamo parlato prima di conflitti di interesse, noi parliamo dalla radio del gruppo Sole 24 Ore, che è partner di Infront per la ricerca di sponsor della nazionale di calcio. Ma ciò non toglie che non smetteremo mai di parlare con chiarezza e onestà intellettuale su questi temi, anche magari andando contro quello che è la montante critica all'operato dei soggetti che sono sotto inchiesta. Insomma, fino a prova contraria quei soggetti non sono colpevoli, questo lo riconosce la Costituzione, e soprattutto ognuno è libero di farsi un'idea con i mezzi che ha delle cose che stanno accadendo. Insomma, a noi, al gruppo Sole 24 Ore, non piace, come dire, prendere per buone le notizie così come girano di bocca in bocca. Cerchiamo di farci un'idea, di capire, si può sbagliare, però insomma questo più o meno è il compito che dovrebbe avere un gruppo, che ha un gruppo come questo. Parliamo un po' di pallavolo. Credo che la squadra stasera abbia dimostrato davvero tanta voglia di fare, tanta voglia di non stare a girare intorno al dispiacere di una partita che si vinceva 2-0, molto importante, che si è persa 3-2, di pensare solo al pallone successivo, anche se quello precedente magari ti ha generato delle difficoltà. L'abbiamo fatto dall'inizio alla fine e credo che questa sia l'unica cosa importante, la più importante, anche perché poi ci interessava passare il turno davvero molto. Questo Blengini, ieri l'Italia ha superato gli esami di riparazione, si è riallineata al resto dell'Europa nei quarti di finale, battuta la Finlandia, questa sera Italia-Russia, ore 20:30, Busto Arsizio, Gigi Mastrangelo, ciao Gigi. Ciao ragazzi. Belli ma non ancora bellissimi. Finalmente però si parla un po' di volley, eh? Ma sì, tra l'altro mi auguro senza dover divagare in cronache giudiziarie, almeno lì. No, speriamo di no, anche perché vi ascoltavo prima, quindi queste robe nel volley non succedono. Però succede che c'è una nazionale non bellissima ieri, però nei momenti che contavano alla fine si è ritrovata. Beh, guarda, non bellissima, l'importante comunque è stato aver vinto 3-0 e è passato il turno, quindi vincere anche in quel modo vuol dire che se la squadra può dare di più e giocare ancora meglio, ben venga. Quindi siccome il potenziale, le qualità sono alte, se si vince giocando male si può vincere sicuramente giocando un po' meglio, forse contro squadre anche più forti. Sì, è la palissiano dirlo. Non so nemmeno se sia vero quello che diceva Blangini, cioè come una sconfitta come quella subita con la Francia in realtà non lascia il segno nella testa, oltre che nell'obbligo di fare un turno in più. Ma no, infatti si è visto ieri sera hanno affrontato la Finlandia, che comunque non è una squadra semplice. Sono quelle squadrette che danno sempre fastidio e io ci ho giocato tante volte, non è mai stato facile vincere. E si è visto che comunque la sconfitta è stata subito dimenticata, quindi hanno fatto una bella gara, non sono stati bellissimi come dicevi, ma hanno portato comunque a casa il passaggio del turno. Questa sera contro la Russia, mi pare di aver capito, non c'entriamo da favoriti in questo quarto di finale, sì. Anche se 20 giorni fa li abbiamo battuti bene in Coppa del Mondo. Sì, non siamo favoriti, però sono comunque quelle partite dentro e fuori e può succedere di tutto. La Russia è una squadra molto fisica, sono sempre stati così, quindi non sono quelle squadre che se vengono limitate in alcuni fondamentali, anche pur essendo molto fisiche, si riesce comunque a giocare e a portare a casa il risultato, quindi si vedrà, perché una partita secca può succedere di tutto. Ma si è capito qual è l'orizzonte di questa nazionale in questo europeo? Ma hanno fatto una bella Coppa del Mondo, si sono qualificati per le Olimpiadi, quindi hanno il gruppo è ottimo, è un bel mix di giocatori comunque esperti, che con l'ingresso di Guantoregna o dei Dicer comunque è dentro da un po' di anni. Il resto sono ragazzi giovani, il palleggiatore compreso, che come sapete il palleggiatore è il ruolo più importante in una squadra di pallavolo ed è giovanissimo, quindi è una squadra che può fare bene da adesso in avanti, quindi il gruppo è ottimo, stanno bene insieme, giocano bene insieme, e questo in uno sport di squadra è importante. A proposito di giovani, volevo fare una domanda da appassionato a Gigi Mastrangelo. Appunto, abbiamo avuto l'allenatore, ha avuto il coraggio di dare un ruolo così delicato a un giovane. Allora volevo chiederti, insomma, come sta il movimento giovanile della pallavolo in Italia, se, come dire, quella generazione d'oro degli anni 90 potrà in qualche modo rifiorire presto. Ma a quei tempi tutte le squadre, tutti i club avevano un settore giovanile importante, c'era anche un campionato tempi che si giocava prima delle partite di Serie A, che era la Junior League, dove comunque tutti i giovani di tutti i club si affrontavano in un campionato, era come il campionato italiano, e quindi avevano comunque modo di giocare, tanti erano anche inseriti nelle prime squadre, di farsi le ossa e di crescere. Oggi questo non c'è più, poi per mancanza di soldi, per mancanza anche di, che ne so, di tempo, di uso delle strutture, tutto quello che si può dire, ma è una cosa importante che manca oggi e non è sicuramente, non va sicuramente a favore del futuro della nazionale, sì, dei club, dei giovani. Difficile costruire una piramide se manca la base, o se alla base non viene data, ecco, la possibilità di esprimersi subito. Io ho un'ultima domanda per Gigi Mastrangelo, noto tifoso juventino, posto che la finale degli europei è domenica a Sofia, cosa fai, sì, domenica sera alle 20:45? Me la guarderò, cosa farò? Cioè Inter Juve. La guarderò e farò il tipo per la nazionale, come sempre. Alla Juve si riprende o no? Anche da non da non giocatore. Va bene, dai, ti saluto, grazie Gigi. Niente, grazie a voi, sempre un piacere. Grazie a Gigi Mastrangelo, 800 24 00 24, Fortunato da Belluno. Pronti? Eccoci, Fortunato. Ecco. Grazie della convocazione e complimenti per il vostro programma, che è sempre piacevole, se non informativo. Allora, considerazioni veloci. Allora, credo che se Conte va via lo fa anche per coerenza, perché avrebbe dovuto stravolgere questa squadra che obiettivamente non ci ha neanche impressionato, anche nelle partite in cui tutto sommato abbiamo vinto. Nel caso dell'Azerbaigian non è che abbiamo visto chissà che partitona, comunque direbbe, non direbbe comunque niente, no? Non so se è d'accordo con me. A me sembra, Fortunato, che questa nazionale abbia espresso anche del bel calcio, lo abbia espresso all'inizio, se ricordiamo la partenza fulminante con l'Olanda, con la Norvegia, quindi vittorie anche convincenti, e lo ha fatto anche in fondo. Poi in mezzo c'è stato un lungo momento di involuzione, di fatica, anche di cambiamento di moduli. Prego, Fortunato. Dicevo che l'Olanda non c'è più, evidentemente, sì, quindi giocavamo con una squadra che era evidentemente la lontana copia di quella che conoscevamo, capisce? Quindi adesso poi si vedrà quello che combineremo. Comunque, per ripetermi, se Conte va via lo fa comunque per coerenza. Poi non capisco anche tutte queste lamentele del fatto che lui ha poco tempo per lavorare con la squadra. Non mi risulta che le altre nazionali diano più possibilità agli altri allenatori. No, lui ha il tempo che hanno tutti gli altri, 45 giorni circa negli anni dispari, e si può arrivare a 90 negli anni pari quando ci sono le manifestazioni. Polemica sterile quella, credo. Ci lamenti, poi onestamente poi ci sono anche fior di comunque di allenatori che sono ancora in giro e a disposizione, quindi io, a me francamente non mancherà. Grazie Fortunato, un amico di Conte abbiamo trovato. Certo, non è un estimatore di Antonio Conte. Parliamo dell'Olanda che è andata fuori, dai. Cade Rabec, attacca sulla fascia destra, entra in area! Cade Rabec, la Repubblica Ceca segna con il primo tiro in porta con Cade Rabec. Šural su Pavandaj, che era di rigore, Šural! Repubblica Ceca 2, Olanda 0, dopo 34 minuti. Skalak, calcio di punizione, autogol di Van Persie, sbaglia porta Robin Van Persie, e questa è la fotografia dell'Olanda. Si crossa, Huntelaar, la schiaccia il cacciatore, 3-1, Klaasie Nunteland. Cercato Dost, arriva adesso la sponda, c'è Van Persie con la punta, questa volta nella porta giusta, col numero 50, con la maglia nazionale per Robbie Van Persie. Abbiamo visto cose che voi umani neanche potete immaginare, tipo Van Persie che segna nella sua porta con un colpo di testa all'angolino. Federico Casotti, ciao Federico. Ciao, ciao a tutti. Quel che è peggio è che l'Olanda assiste al suo crollo, mentre il Belgio non è mai stato così bene da 30 anni a questa parte. Sì, l'abbiamo detto, da oggi numero uno al mondo, ranking FIFA, quello che non piace a Conte, però da oggi in testa c'è il Belgio, che era 66esimo fino a 2 o 3 stagioni fa. Eh sì, invece per l'Olanda c'è parecchio da ricostruire. Secondo me il parco giocatori poi alla fine non è neanche così malvagio, però ci sono stati errori filosofici ed errori proprio materiali. L'errore materiale a monte di tutto è la pessima gestione del dopo Van Gaal, dove era stato già scelto il CT perfetto, che era Ronald Koeman, però è stato detto che okay, tu vieni però hai Hiddink come tutor. Immaginatevi la risposta di Koeman, che poi è andato infatti al Southampton, è stato affiancato Blind a Hiddink, ma Hiddink ha dimostrato poi nello scorso anno di avere ormai davvero poco da dire, almeno a certi livelli. E Blind, quando è stato poi promosso in fretta e furia, è apparso comunque delegittimato, perché se un allenatore ha bisogno del tutor per essere considerato all'altezza, insomma questo è il messaggio che passa ai giocatori, è quello comunque di un allenatore non pienamente legittimato, del quale per primi i datori di lavoro evidentemente non sono convinti, e i risultati si sono visti. Sì, poi anche un po' di sfortuna, ci sono stati gli infortuni, c'è stato tanto che credo abbia poi spinto l'Olanda fuori da un europeo dove non sta fuori nessuno, perché poi il paradosso è questo è un europeo allargato a 24 squadre, noi abbiamo detto all'inizio era praticamente impossibile non qualificarsi, e c'è rimasta fuori una squadra che 15 mesi fa giocava la semifinale mondiale, e questo credo che colpisca, Federico. Sì, oltretutto è uscita contro due nazionali, la Repubblica Ceca e la Turchia, che negli ultimi 10 anni sono oggettivamente calate. La Repubblica Ceca, dopo il ritiro di Nedved, ha perso un po' un punto di riferimento a livello internazionale, come poteva esserlo l'ex Juventino. La Turchia, dopo il terzo posto del Mondiale del 2002, non ha più sfondato come in quell'occasione. Io penso che per l'Olanda ci sia anche poi un aspetto diciamo di atteggiamento, di approccio, che dall'estero, da fuori, si fa fatica a cogliere. Però i risultati maggiori negli ultimi anni sono arrivati al Mondiale del 2010 e al Mondiale del 2014, nelle uniche due occasioni in cui l'Olanda non ha giocato all'olandese, ha giocato anche magari difendendosi se è il caso, addirittura giocando con la difesa 5 con Van Gaal, che era uno con le spalle larghe, e uno con le spalle larghe e se lo può permettere può fare spallucce se poi Cruyff nei suoi editoriali lo attacca, ma nel momento in cui viene messo poi appunto dalla federazione, vengono messi magari dei CT un po' più deboli, ecco che ritorna la fissazione per il 4-3-3 e sostanzialmente anche la sensazione che la frustrazione di un gioco che è sempre stato innovativo, il gioco olandese, e che improvvisamente si trova da un lato forse un po' sorpassato e dall'altro copiato da altre nazionali ma con interpreti migliori, no? E questa secondo me è la grossa frustrazione che sta vivendo in questo momento il calcio olandese, vedere che il proprio gioco viene attuato con risultati molto molto migliori da altre nazionali o per tacere dei club. No, aggiungevo soltanto che un'altra grande, l'ultimo mondiale, l'Argentina, credo, se non erro, ha fatto un punto in due partite nel torneo sudamericano. Sì, ma anche il Brasile sta facendo fatica, per quanto si sia riscattato dopo la caduta nella prima partita. Detto questo, il 12 dicembre a Parigi noi andiamo in seconda fascia, e il perché lo abbiamo spiegato prima: prescheremo una big, una testa di serie, e qui si cade male comunque. Attenzione, quella che decide è la terza fascia, rischiamo la Polonia, rischiamo forse la Croazia, però potremmo anche pescare bene, perché ad esempio la Romania non è un avversario irresistibile, poi vedremo anche che cosa esce dai playoff di novembre. Grazie Federico. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Federico Casotti, direttore di gol.com. abbiamo un minuto e mezzo. Lorenzo da Brescia. Buongiorno, io faccio, ho sentito prima l'intervista o la dichiarazione di Mastrangelo per i giovani e concordo con lui nel senso che c'è una grossa problematica in qualsiasi sport. Io faccio parte di una società sportiva che l'anno scorso siamo andati in A2 nel mondo della pallavolo, che è bresciana, e abbiamo avuto il coraggio l'anno scorso di mettere 9 nostri giovani titolari in Serie A2 e quest'anno siamo 13 su 15 bresciani del nostro vivaio. Questo qua fa sì che c'è la possibilità da parte dei giovani di poter crescere e cercare di poter portare quella fonte di esperienza che potrebbe essere anche le fasi o le basi delle nazionali. Se non si ha quel coraggio qua, non si può più pretendere che le società sportive possano investire sui giovani quando il giovane è coperto in qualsiasi sport o da stranieri o da gente che a livello professionistico viene contattato, viene importato da altri. Da fuori. Sì, credo possa essere, Lorenzo, la ricetta anche per altri sport, anche per il calcio, però poi nel calcio, soprattutto per le grandi, c'è bisogno di fare risultati subito, e nel calcio ad esempio la retrocessione dalla Serie A alla Serie B è un dramma economico per chi la subisce, spesso è l'anticamera del fallimento e quindi poi si cerca la via più veloce. Abbiamo finito, io ringrazio Marco Belinazzo. Grazie a voi, ci sentiamo alla prossima a Colonia Monzese con Goal Economy. Goal Economy, e poi c'è il 19 e il 20 altri due appuntamenti a Napoli, alla Federico II e alla Partenope, insomma, con l'economy nelle università, una cosa che è molto carina. Speriamo lì di poter parlare davvero del modo in cui l'economia e la finanza possono aiutare il calcio e non di come lo fagocitano. Assolutamente. Ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento domani dopo il GR delle 14. Ciao! Bellissimo spettacolo di sport, bravi!